Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie della vostra cortese attenzione e grazie a Cristiano Valli per la regia. E l'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.